It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli il macabro ciclo della vita e della morte non conosce pause, K e Drago scoprono l'amplificazione lineare. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Drago. Drago! Oh, cosa c'è? Hai capito cosa ha detto? No, che è non chiaro, ho capito. È chiaro, Drago. Vogliono comunicarci in tedesco qualcosa di importante sull'amplificazione lineare. Di lineare Verstärkung, capito? Ma vogliono chi? Quelli della fabbrica di polli. Vorranno sicuramente comunicarci qualcosa di importante sull'amplificazione lineare. Il fatto è che non ci comunicano niente di interessante. Io non riesco a capire il resto della frase. Che quello è importante? Di lineare Verstärkung... Thelma e Louise, sembra. Ma tu senti che dicono Thelma e Louise? Non so, mi sembra di sì, Thelma. Ma che scusa, che senso avrebbe delineare Verstärkung Thelma e Louise? E poi non è Thelma e Louise, ma Thelma and Louise, se lo scrivi con la E commerciale. E se è in tedesco, allora diventa addirittura Thelma und Louise. Non funziona. No, ma non funziona. Thelma und Louise non funziona. Come non funziona? Non funziona. Ma sì che funziona. Ma non funziona. In Germania funziona. In Italia... non funziona. Drago, in Italia non funziona. Non funziona. Non funziona. L'elettricità non funziona. Il telefono non funziona. La macchina non funziona. Mi piace partire in macchina d'agosto. Resto in coda volentieri alla cassa del bar. Resto in coda volentieri sulla riva del mar. Resto in coda anche la sera quando vado a far l'amore sul via. Io voglio fare le cose tutte quante insieme a voi. Non voglio restare solo mai. Io voglio fare le cose in diretta con il mondo. Non voglio star da solo neanche un minuto e neanche un secondo. La fabbrica di polli. E i polli polacchi vengono qua e stanno lì tutto il giorno a pulire finestrini. E poi la sera pregano. E la mattina presto. E pregano e pregano. E c'è poco da pregare qua. Meglio prendere la parrocchiatina, va? Invece di pregare. Invece quelli non la prendono la parrocchiatina. No, perché è peccato. E poi dopo 2 mesi sono lì che con la lingua fuori dico: ma tu come mai stai un po' meglio di noi? Adesso non te lo dico. Vai a pregare, chiedilo. Sai bene a chi chiederlo. Perché voi siete sbattimento. Io no. Poi i polacchi, Sì, lava il finestrino. Prega, aspetta e spera. Intanto io mangio anche la tua porcettina. E poi mica arrivo solo dalla Polonia. Lì dall'est ne arrivano un po' di polli. I polacchi pregano. Poi ci sono gli altri slavi. Bevono dalla mattina alla sera. E anche quelli niente la porcettina. Perché bevono. Sì, bevono, stanno 2 ore a cantare tutti contenti. Poi dopo gli viene la paranoia. Paranoia. A parte che poi dopo fanno si menano, si beccano fra di loro. E c'è di buono che stanno sempre fra di loro, che non si mischiano, perché noi ci restiamo alle nostre parti, non vogliamo mica nessuno, di questi qui che arrivano da fuori. Ma chi sono? Arrivano e magari vogliono occupare la nostra gabbia, che ce la siamo fatta pagliuzza dopo pagliuzza, ognuno c'ha il suo ambientino, fa schifo ma è il suo ambientino. Invece arrivano questi e dicono, noi ci mettiamo qua, no, qui ci siamo noi, voi andate a bervi una birra, va, che vi piace, E niente anche dall'Oriente, non parliamo dell'Oriente, mamma mia, perché la viaria l'hanno portata quelli lì, non è che l'ho portata io la viaria, che sono un polo di qui, l'hanno portata quelli là, lo sappiamo da dove arrivano, se questa fabbrica è così, chissà la fabbrica di polli in Cina, E dopo arrivano questi camion, senza scritto niente sopra, che uno dice, vabbè, sono arrivati noi i polli, ma da dove arrivano i polli? Questi dalla Cina, lì sono tutte malattie, malattie e un po' di sporcizia. Poi c'hanno dei metodi anche loro di ambientarsi fra la gente, fra gli altri polli. Adesso comincia a diventare politicamente scorretto. Pronto? Pronto? Allo? Pronto? Mandalin? Mandalin. Vorrei ordinare per K. K? Lo veniamo a prendere. Che? K? Allora, vorrei quattro pezzi in voltini. In voltini. Quattro in voltini. Tre porzioni di riso alla cantonese. Tre riso cantonesi. Due porzioni di spaghetti con verdure. Con verdure, senza verdure. Di soia, sì, di soia. Certo, soia. Volevo dire di soia. Una porzione di ravioli con verdura. Momento, ravioli con verdura! Una porzione di anatra alle spezie. Spezie, una porzione di pollo limone senza pastella, mi raccomando. Senza pastella pesante. Poi, una porzione di maiali in agro dolce. E una porzione di gamberoni alla piastra. Gamberoni in piastra abbiamo? Sì, basta così. Sì, basta così. Perché ora dobbiamo venire? Domani, dopodomani, facciamo fra un quarto d'ora? Di adesso o di domani? Un quarto d'ora, ok, quarto d'ora. Grazie. Buonasera. In the middle of nowhere. La fabbrica di polli. Drago, posso farti una domanda? Me ne hai appena fatta una. Allora un'altra. Allora la versione giusta è: posso farti due domande? La prima te l'ho appena fatta, per cui non serviva a chiedertelo, ma te ne posso fare un'altra? Ah no, con questa seconda domanda ho esaurito le domande a mia disposizione, per cui scusa, passo e chiudo. Sono senza parole, inutile fare. Sei senza parole? Sì. Come, non so, una sinfonia qualsiasi di Beethoven. Oppure, non so, come Bernardo. Bernardo Bertolucci. Bernardo, il servo muto di Zorro. Mamma mia, Bernardo. O come la suoneria di un cellulare. Pronto? Pronto? Sono Batman. Dite la verità, non state già più capendo niente. Ma non preoccupatevi, nessuno sta più capendo niente fin da quando tutto è cominciato. Chi è davvero l'amministratore delegato? Prima di tutto non siete tenuti a saperlo. Quale creatura orribile si aggira nei boschi ansimando e ringhiando? Da dove sbuca la gallina aristocratica inglese? Hello. E il pollo in sbattimento, sempre più in sbattimento. Incubo della morte. Un consiglio, lasciate passare anche questo weekend e tutto vi sembrerà più chiaro. Quando ci ritroverete, da lunedì fino a venerdì, a mezzanotte su Radio 3, con i prossimi avveniristici allestimenti de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli, un programma di K e Drago, con l'aiuto di Roberto Accornero, Guido Bertolotti, Paolo Corsi, Luca Gemma, Luca Micheli, Luca Monarca, Rachel Roberts, Massimiliano Speziani, Mark Worden. La fabbrica di polli at rai.it, barlumen.com. La fabbrica di polli produce, non chiude. Good night, ladies and gentlemen, good night. Barney.